Buonasera a tutti, grazie per la pazienza con cui ci avete attesi. Abbiamo deciso di cominciare questa serata leggendo direttamente degli estratti dall'opera che vorremmo presentare, Pastiche, cultura materiale alla Veronelli. Mi permetto il lusso di essere emozionato per una serie di ragioni. Uno, perché è il tornare qui dopo 10 anni, è vero, abbiamo sempre frequentato Leoncavallo e la Terra Trema in particolare, però tornare qui per ricordare Luigi Veronelli a 10 anni dalla scomparsa, insomma, in ciascuno che ha attraversato il percorso di Terra Libertà Critical Wine non può che sollevare una serie di emozioni forti che sarebbe stupido e inutile reprimere, insomma. Quindi sono molto contento di presentare Pastiche, la rivista, la pubblicazione che Seminario Veronelli ha prodotto con tanto tanto lavoro per il decennale della morte di Luigi Veronelli, nostro fondatore, qui al Leoncavallo. Decennale, 10 anni fa moriva Luigi Veronelli, proprio oggi, 29 di novembre. Luigi Veronelli è stato per milioni di persone, voglio dire, coloro che l'hanno visto in televisione, l'hanno incontrato nelle più svariate occasioni, ecco, per tutta questa gente è stato un maestro, è stato un interlocutore significativo, provocatorio, importante. Lo è stato anche per tutti noi, per ciascuno in modi molto diversi. Ricordarlo a 10 anni dalla scomparsa per un'associazione che porta il suo nome, che è stata fondata da lui nel 1986, insomma, è un momento davvero, davvero particolare. Non volevamo però ricordare Veronelli in modo edulcorato, o come spesso accade con le persone purtroppo scomparse, come dire, depurandolo da tutti gli spigoli che tutto sommato possono essere scomodi anche per chi siede in un luogo come questo. Insomma, non penso soltanto alle idee politiche provocatorie, ma anche alle contraddizioni che Luigi Veronelli, esattamente come qualunque altra persona, portava in sé. Ecco, noi volevamo in qualche modo riuscire a riportare nella nostra pubblicazione la complessità di una figura come Veronelli e la genialità della sua operato per oltre 50 anni. Può essere utile per capire come quest'opera è stata pensata, capire chi siamo e quindi, oltre che così interessante, anche educato che mi presenti. Io sono Andrea Bonini, ho avuto il piacere di collaborare con Veronelli per 2 anni, negli ultimi anni della sua vita. Accanto a me ci sono persone che lo hanno conosciuto in alcuni casi in modo molto più approfondito di me. Da qualche mese dirigo il Seminario Permanente Luigi Veronelli, che è un'associazione senza scopo di lucro fondata nel 1986 da Gino e da alcuni dei più importanti vignaioli italiani. Centinaia di aziende si sono riunite intorno alla figura di Luigi Veronelli e hanno sviluppato una propria progettualità dall'86 a oggi, quindi sono 28 anni che ci sforziamo di essere una presenza costruttiva, propositiva e provocatoria quando serve nel mondo della gastronomia. Per capire gli obiettivi della nostra pubblicazione di Pastiche, poi Simonetta, che ne è stata curatrice, spiegherà bene perché abbiamo scelto questo nome curioso. Per capire gli obiettivi di questa pubblicazione è forse interessante capire gli obiettivi della nostra associazione, perché abbiamo cercato di usare, tra virgolette, il decennale, per parlare di noi, per portare avanti le idee di Veronelli nel nostro approccio particolare alla gastronomia. Il Seminario Veronelli ha svolto per oltre 20 anni una funzione estremamente importante nel mondo del vino in particolare. È nato nel 1986, quando c'era veramente una frattura, un oiato tra il mondo della produzione e il mondo della ricerca dell'università. Ecco, questa funzione mi rendo conto, di cui io personalmente parlo raramente, però è stata una cosa a suo modo storica per la gastronomia italiana. Perché allora pensate che c'era un mondo senza consulenti, poi Gigi è stato direttore dell'associazione per 25 anni, potrà raccontarlo meglio, però immaginate come poteva essere un mondo 25 anni fa, 28 anni fa, in cui c'erano nascenti facoltà universitarie, nascenti centri di ricerca e un mondo della produzione che era, come dire, ancora impantanato, era il mondo del metanolo, era il mondo di una produzione alla ricerca di una sua direttrice di crescita. Ecco, noi abbiamo lavorato da allora per unire i percorsi dell'università al percorso della produzione, perché allora questa era l'emergenza, questo era quello che c'era da fare storicamente per la gastronomia italiana e per il vino italiano. Pensando a come onorare il decennale della morte di Luigi Veronelli, abbiamo detto: occorre fare qualcosa di cui c'è necessità. altrimenti rischiamo di cadere nella retorica vuota del ricordo per il ricordo. Ci siamo interrogati a lungo cosa è necessario oggi fare per il mondo del vino e per la gastronomia. Il passaggio delle competenze tecniche dall'università alla produzione è già ampiamente fatto. Se c'è una cosa che abbonda nel settore della produzione vitivinicola è proprio le competenze tecniche. Ci sono enologi giovanissimi e perfettamente formati di estrema competenza, ci sono consulenti, ahimè, anzianotti, estremamente preparati e con, come dire, onorari a non so quanti zeri. Ecco, direi che proprio se c'è qualcosa che abbonda sono le competenze tecniche. Quello che ci siamo accorti manca, e abbiamo avuto la presupponenza di individuarlo come nostra funzione, è riuscire a fare cultura gastronomica per dare a chi beve, a chi mangia e anche a chi produce la criticità per utilizzare gli strumenti della tecnica, sostanzialmente. Molto spesso ci confrontiamo e ragioniamo su come parole d'ordine forti, anche, come dire, positive, voglio dire, vengono spesso usate nel modo più becero e stupido. Pensiamo a tutta la retorica che c'è intorno alle produzioni naturali, alla retorica che c'è intorno all'intervento umano nei processi produttivi. Ecco, quello che riteniamo possa essere il nostro contributo oggi, e lo è anche per questa pubblicazione, è fornire a chi beve e a chi produce e a chi mangia gli strumenti culturali per maneggiare concetti complessi come quelli della produzione e della tecnica. Scusate questa piccola digressione, che vi chiederete forse che cosa c'entra, ma credo sia importante capire perché il Seminario Veronelli, che si è sempre occupato di ricerca, si è sempre occupato di cultura scientifica, abbia deciso di ricordare Veronelli con un'opera che è essenzialmente culturale, intesa in senso più alto del termine. Se lo facciamo è proprio perché riteniamo che questa sia una necessità e vogliamo farlo in questa sede. Da queste premesse, da questo inquadramento, nasce Pastiche. Pastiche è una rivista, o meglio, presentiamola come rivista, perché l'intento è quello di uscire anche nel 2015 con una nuova pubblicazione, che in qualche modo si fa erede del Consenso, che era la rivista che l'Associazione Seminario Permanente Luigi Veronelli ha editato per moltissimo tempo. Naturalmente nasce per il decennale di Luigi Veronelli e vuole in qualche modo cominciare a portare dell'aria fresca nel mondo della gastronomia, risolvendo i nostri limiti come associazione. Noi riteniamo che nella gastronomia, così come nella nostra associazione, sia necessario rinnovare i linguaggi, rinnovare i punti di vista, proprio perché riteniamo che alcuni percorsi si siano nel tempo aggrovigliati su loro stessi. Abbiamo cercato di farlo, abbiamo provato a farlo, io credo che abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati, poi starà a voi leggerlo e giudicarlo, esplodendo la nostra piccola associazione, andando a coinvolgere per quest'opera dedicata a Luigi Veronelli soggetti con competenze diverse, alcuni che vengono dal percorso della gastronomia, abbiamo enologi, abbiamo vignaioli di primo ordine, abbiamo chef, altri che invece con la gastronomia hanno a che fare da un punto di vista più culturale, quindi abbiamo intellettuali, ricercatori, docenti universitari, sociologi, insomma. Abbiamo cercato di meticciare i linguaggi proprio per l'obiettivo di rinnovarli. Spesso accade, è successo anche in questi giorni, di così lamentarsi un po' all'unisono su quello di cui parlava Ciro Tarantino nel suo pezzo, cioè sulla modestia del discorso gastronomico televisivo. Ecco, fino a qua siamo tutti d'accordo. Come rinnovare questo discorso? Quali alternative fare? Cosa dice la cultura oggi sul mondo della gastronomia? È un'impresa un pochino più difficile della semplice critica. Noi, con tutta la modestia delle nostre competenze, abbiamo provato a farlo affidandoci a grandi firme che ci hanno regalato i loro pezzi. Tutte le persone e gli autori che hanno partecipato a questa rivista dedicata a Veronelli, ma guardando al futuro, hanno collaborato in modo totalmente gratuito e sentendosi appunto parte di un progetto comune. Io direi che ho parlato a sufficienza. Lascio molto volentieri la parola a Simonetta Lorigliola.